Radio 24 e Salone del Libro 2011 presentano L'Italia in 15 libri. Giuseppe Ungaretti, Allegria di naufragi. C'è un libro al quale sono molto legato ed è il libro che è nato nelle trincee della prima guerra e si chiama L'Allegria. L'Allegria è un titolo ironico, ma insomma la poesia è comunque anche nel naufragio, e allora era un naufragio e forse tutta la vita umana è un costante naufragio. Quella poesia era l'allegria di quelle tremende ore, con la minaccia costante della morte. Giuseppe Ungaretti ci accompagna, letteralmente, nel dolore della Prima Guerra Mondiale. Partito lui stesso volontario, combatté sul fronte del Carso. Ungaretti annotava i versi su quel che capitava: cartucciere vuote, ritagli di fogli d'ordine, cartoline militari. Quando io mi sono trovato di fronte alla guerra, io mi sono trovato anche di fronte ad un linguaggio che dovevo per forza di cose rinnovare, no? Rendere essenziale, perché anche non avevo il tempo di usare un linguaggio complesso, avevo bisogno che fosse essenziale proprio a un punto estremo, no? Quindi dando al vocabolo un valore enorme. Nascono così i testi che confluiranno ne L'Allegria, pubblicata nella sua prima edizione definitiva nel 1919. In quest'opera Ungaretti rielabora il messaggio formale dei simbolisti, conosciuti nel suo periodo di formazione a Parigi, coniugandolo con l'esperienza atroce del male e della morte nella guerra. La critica tradizionale e il grande pubblico, però, furono molto critici verso il lavoro del poeta, accusato di frammentismo. Sono una creatura, come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata, come questa pietra è il mio pianto che non si vede. La morte si sconta vivendo. Verticalità del testo, la singola parola che diventa verso, la scomparsa della punteggiatura. Ungaretti introduce molti elementi di novità nella poesia italiana. Furono soprattutto i poeti dell'ermetismo a riconoscere in Ungaretti il poeta che per primo era riuscito a rinnovare formalmente e profondamente il verso della tradizione italiana. Da allora Ungaretti ha conosciuto una fortuna ininterrotta. Poesie brevissime mi richiedono 6 mesi di lavoro, non sono mai a posto, si seguono con l'orecchio, non si sa poi che cosa sia questo orecchio, poi va dietro al significato, va dietro al suono, insomma tutto deve finire col combinare e col dare la sensazione che si è espressa la poesia, no? Non si è mai espressa veramente, si è sempre scontenti, no? Si vorrebbe che fosse detto diversamente, ma la parola è impotente. La parola è impotente, la parola non riuscirà mai a dare il segreto che è in noi, mai lo avvicina. L'impotenza della parola come faticosa scoperta di un poeta. Sembra un paradosso, ma è il punto di partenza dei grandi scrittori e poeti del Novecento, da Montale a Gadda e Calvino. Eppure nell'Allegria, come nelle registrazioni televisive di Giuseppe Ungaretti, noi ritroviamo ancora oggi parole che suonano esatte e giuste. L'uomo nella guerra manifestava i suoi peggiori istinti, anche se quella guerra, quando c'eravamo entrati, ci sembrava che fosse l'ultima guerra, che fosse la guerra per liberare l'uomo dalla guerra. La guerra non libera mai l'uomo dalla guerra, e la guerra rimarrà sempre l'atto più bestiale dell'uomo. L'Italia in 15 libri è un programma di Guido Scotti. Tutte le puntate sono scaricabili all'indirizzo www.radio24.it.